Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Da sistema di controllo a intelligenza d'ambiente, da centralina per la regolazione di variabili ambientali come per esempio la temperatura oppure il livello di illuminazione, a vera e propria intelligenza artificiale capace di riconoscere i bisogni dell'utente e dare risposte. Si può forse sintetizzare così il percorso evolutivo della domotica negli ultimi anni, percorso all'interno del quale si inserisce, come dice d'altronde anche il nome, Sesto Senso, un sistema multisensoriale progettato e brevettato dall'Enea, un sistema in grado di monitorare e ottimizzare il comfort e anche i consumi energetici di abitazioni e uffici. Pur non essendo l'unico sistema di questo tipo, sono in molti a lavorare su questa prospettiva, Sesto Senso ha alcune caratteristiche di assoluta originalità che riguardano proprio la capacità del sistema di riconoscere per esempio la presenza di persone all'interno dell'edificio e quanto in generale sta accadendo. Ne parliamo con Francesco Romanello della divisione Smart Energy dell'Enea, che è la divisione che ha progettato e brevettato questo Sesto Senso. Buonasera Romanello. Buonasera a tutti. Allora, senta, uno di questi diciamo aspetti più innovativi è proprio il modo in cui riesce a contare quante persone ci sono in un ambiente. Sì. In effetti, in contrapposizione o in sostituzione dei sistemi attualmente commerciali che fanno riferimento a sistemi ad infrarossi che vanno a vedere il movimento delle persone, noi invece con il nostro sistema riusciamo a fare un conteggio del transito agli accessi ai locali monitorati e quindi possiamo con un contatore sapere quante persone stazionano nell'ambiente. Quante sono entrate, quante sono uscite e per differenza esatto. Naturalmente quante persone si trovano ancora all'interno. Anche qua non è che fosse possibile contare delle persone che passavano da un varco, però voi avete trovato una soluzione economica, no? Economica, perché con due sensori di prossimità di pochi euro. Quelli che fanno scattare, per capirsi, lo scarico dell'acqua nel bagno. Sì, esatto. Riusciamo a individuare intanto il verso se è in accesso o in uscita da un ambiente e quindi riusciamo a fare il conteggio e quindi sapere quante persone sono presenti in un ambiente. Da qui chiaramente ci si apre un mondo di utilizzo e di applicazioni. Di questa informazione, per esempio, quanto devo cambiare l'aria in un edificio, magari ad uffici, dipende da quante persone ci sono dentro, no? Ad esempio, sì, certo. Senta, voi avete messo a punto un sistema originale, direi, assolutamente per misurare la concentrazione di CO2, che è uno di quei parametri che permettono di prendere le decisioni informate, per esempio in termini di ricambio dell'aria, cose di questo genere. Sì, perché il sensore di CO2 è un sensore molto costoso e anche antipatico da utilizzare e da trattare dal punto di vista elettronico e quindi in modo indiretto, quindi con misure indirette, noi riusciamo a risalire molto precisamente al tenore di CO2 in un ambiente. Cioè che cos'è che misurate e come fate poi a ricostruire l'informazione sulla CO2? Beh, noi sapendo il numero di persone che sono presenti nell'ambiente, sapendo se la porta è chiusa o se è socchiusa o se è aperta o la finestra è chiusa, socchiusa o aperta, chiaramente possiamo risalire andando a considerare anche altre variabili che possono intervenire. I fornelli accesi oppure no, per esempio. Ecco. Possiamo, anche se ci sono delle piante a foglia larga, possiamo risalire al valore della CO2. Ecco, e utilizzate per fare questi calcoli quella che viene chiamata una rete neurale, questo è un altro aspetto innovativo del vostro sistema? Sì. Una rete neurale che ha nelle sue prerogative quella di imparare durante l'utilizzo, quindi durante una prima fase di apprendimento, imparare come evolverà il valore di CO2 in funzione del numero delle presenze, del fatto che ci sia un fornello acceso. Cioè non dovete voi prima dirgli guarda che se ci sono tre piante devi fare questi conti, se c'è la finestra aperta devi fare questi altri conti, è intrinsecamente questo struttura che si chiama rete neurale che è capace di imparare e sempre con l'aiuto di una rete neurale voi anche ascoltate con dei microfoni quello che succede dentro la casa o dentro l'ufficio, non per fare la spia, per fare che cosa? Ad esempio per fare assistenza ad esempio alle persone anziane. Immaginiamo una persona anziana che sviene e rimane lì per terra, e il sistema va a valutare una serie di dati, ad esempio quando c'è stato l'ultimo movimento, quando c'è stata appunto la caduta, che potrebbe essere rilevata dai sensori, dai microfoni, come un rumore, certo. E a questo punto Mettendo insieme tutte le informazioni, tutte queste informazioni, la tipologia del respiro, la localizzazione della persona, addirittura è una persona che respira dal pavimento e quindi è chiaramente sdraiata a terra, è per terra, quindi non è una posizione non naturale, e quindi il sistema in modo automatico fa una chiamata e chiama aiuto. Ecco, questo è proprio, mi sembra, un ottimo esempio di quella che definivo intelligenza d'ambiente, cioè tutte queste informazioni sono informazioni che in qualche modo venivano raccolte anche prima, potevano essere raccolte anche prima, è il modo in cui utilizziamo queste informazioni che rende preziosa la loro raccolta, no? Altrimenti erano rumori, temperature. E da qui il nome Sesto Senso. Grazie Francesco Romanello. Grazie a lei, buona serata anche a tutti gli ascoltatori. Bene, è tutto anche per questa sera, appuntamento come sempre a domani.